Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Non viene mai evidenziata la differenza tra finanziamento illecito e tangenti. Il primo riguarda le irregolarità dei bilanci dei partiti finanziati, mentre le tangenti implicano i reati di corruzione e concussione. Quando si parla di craxi e in generale di mani pulite, si tende a fare un unico calderone, parlando solo di finanziamenti, cercando così di minimizzare le responsabilità di chi ha corrotto, mettendoli sullo stesso piano di chi ha ricevuto finanziamenti e non li ha contabilizzati. Sarebbe ora di fare chiarezza. Probabilmente è vero che tutti i partiti avranno ricevuto finanziamenti illeciti, ma è altrettanto probabile che non tutti avranno commesso il reato di corruzione. Daniela. A proposito delle polemiche sul progetto di dedicare una via a Bettino Craxi, vorrei segnalare che via Craxi in Italia esiste già, e precisamente in questi paesi: Valmontone, provincia di Roma, Foggia, Lecce, Botrugno, provincia di Lecce, Marano Marchesato, provincia di Cosenza, Scalea, provincia di Cosenza, Grosseto. Ricordo che in Italia esistono anche via Marx, via Lenin, via Che Guevara, via Maresciallo Tito, via Ho Chi Minh, via Trotsky, via Mao Zedong, via Stalin, via Rivoluzione d'Ottobre, via Unione Sovietica. Cordiali saluti, Carlo. Anche ieri mattina il vostro sondaggio è stato incentrato sulla figura di Berlusconi e siamo solo all'inizio di gennaio. Per favore, basta parlare sempre dello stesso argomento. Credetemi, molti di noi ne hanno le scatole piene. Se quando ci saranno novità sulla figura di Berlusconi sarà giusto parlarne, ma per favore non iniziate l'anno con lo stesso argomento con cui l'avete finito. Di argomenti ce ne sarebbero moltissimi. Che ne dite di iniziare a sondarci sul funzionamento delle poste, dei treni, dei pubblici uffici? Che ne dite di parlare di lavoro nero, di Europa unita o di inquinamento? Fiorenzo. Io non sono un fan dell'astrologia e non leggo oroscopi e quant'altro, ma credo che qualche influenza a livello cosmico, galattico e planetario i pianeti e le stelle ce l'abbiano. Semplicemente per questioni di magnetismo e attrazioni gravitazionali. Per quanto mi riguarda, al primo posto, tra le categorie che non azzeccano mai le previsioni, metterei gli economisti. Il secondo e il terzo posto se li giocano meteorologi e astrologi. Stefano. Nelle ultime due settimane sono stati tanti peana a favore del nostro ministro dell'economia Giulio Tremonti per come ha gestito la situazione economica del nostro paese nel 2009. Tra questi anche quello del Sole 24 Ore, che ha attribuito a Tremonti il riconoscimento di uomo dell'anno per l'attività svolta e la determinazione con cui ha saputo mantenere fermi i suoi propositi di rigore economico in questo anno particolarmente difficile per l'economia globale. Poche le voci fuori dal coro, benché autorevoli. Quello che non si sente né si legge mai sulla stampa è un approfondimento a questo riguardo, cioè una discussione seria sulla provenienza di questi 95 miliardi di euro che non sono rientrati con l'ultimo condono. 100 miliardi di euro, concedetemelo, non sono i più che giustificabili extra introiti di qualche artigiano o piccola azienda che evade quel poco che può per poter sopravvivere a questo fisco esoso. 100 miliardi di euro sono una somma enorme. Sono quasi 1.700 euro netti per ogni italiano, poppanti, bambini e ultra sessantenni inclusi. Se prendiamo in considerazione lo stipendio medio degli italiani, 100 miliardi sono quasi due mensilità lorde per ogni lavoratore attivo di questo paese. Tutta questa ricchezza è stata sottratta e messa al sicuro all'estero. E non è ancora finita, visto che lo scudo è stato protratto sino ad aprile. Vedremo fino ad aprile quanti saranno i miliardi effettivamente rientrati. Da dove vengono questi soldi? Quali sono le procedure colabrodo che hanno permesso e permettono a imprenditori e società un po' furbette di esportare illegalmente una massa di denaro così cospicua? E a chi è stata sottratta? Io penso che una buona parte di questi soldi venga da coloro che nel passaggio lira-euro hanno approfittato a mani basse dei facili bypass mentali di noi cittadini, per cui, dopo pochi mesi dall'introduzione del nuovo conio, le vecchie 1.000 lire sono diventate, quasi per magia, 1 euro. E l'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti cosa ha fatto per evitarlo? Ben poco, visto i 100 miliardi messi al sicuro all'estero e oggi tassati al ridicolo 5%. E così il cerchio si è chiuso, con buona pace di milioni di cittadini a reddito fisso che dal 2002 fanno fatica ad arrivare a fine mese. Qualcuno è diventato più ricco, molti più poveri, come durante una guerra. Andrea. Avete ora compreso appieno perché in Italia hanno voluto rendere l'immigrazione clandestina un reato in se stesso? Si tratta di un reato che è punito, in maniera durissima fino alla morte, in Cina, Russia, Cambogia e simili. Non è punito in alcun modo nella maggioranza degli stati europei, è punito, ma in modo ben regolamentato, in Germania, Gran Bretagna e Francia. Paesi dove l'immigrazione illegale è effettivamente contrastata e punita con reclusione e multe, ma dove permessi temporanei, regolarizzazioni e asilo politico sono facilissimi da ottenere se non si è dei criminali. E si ottengono in poche settimane, non in mesi o anni come da noi. Insomma, controlli e obbligo di legalità strettamente applicati, ma con tutte le facilitazioni per accogliere chi viene per bisogno o perché nel proprio paese si rischia la vita. Infatti sono paesi con immigrazione di terza, quarta, quinta generazione e con rapporti immigrati-cittadini fino a 7 volte più alti dei nostri. Nel momento in cui in Italia la clandestinità è un reato, per come sono fatte tutte le pratiche burocratiche italiane per avere diritto a asilo politico o per cercare lavoro, nessuna condizione che porta all'autodenuncia o autodichiarazione è più possibile. Essere clandestino in questo nostro paese incivile oggi è come era essere ebreo nella Germania anni 30, una colpa in sé. E clandestini si diventa perché, com'è la legge ora, o sei un turista ricco, o sei cittadino comunitario, o sei clandestino. Non ci sono nei fatti altre possibilità. Quindi non è più possibile curarsi, andare a scuola, chiedere un permesso per qualsiasi attività, intraprendere qualsiasi tipo di attività lavorativa che non sia in nero, avere un contratto di qualunque tipo, comprare qualcosa con il riconoscimento della proprietà, risiedere temporaneamente per svolgere attività lecite di qualunque tipo che richiedono tempo, nulla. Questi uomini diventano dei fantasmi ricattabili e pronti per la schiavitù. Insomma, l'insieme delle norme burocratiche più l'attuale reato di clandestinità servono solo per creare una casta inferiore di schiavi ricattabili. A cosa e a chi serve una cosa del genere? L'unico potere che potrà disporre a proprio piacimento dei clandestini sarà allora la criminalità organizzata, che alza i prezzi dei barconi e aumenta il proprio potere sui nuovi schiavi. E così si è chiuso il cerchio. La legge serve ai criminali e premia solo chi è criminale. Il clandestino, nel 99% dei casi, non viene per delinquere. Ma poiché viene deliberatamente reso debole e ricattabile, allora trova accoglienza solo come criminale. Quindi diventa criminale. Questa legge sostiene e incoraggia la criminalità nei fatti. Insomma, una profezia che si autoavvera. Ti dichiaro criminale e tu allora devi diventarlo. Se vuoi essere un criminale, nessun problema di clandestinità. Mamma mafia ci pensa lei, ti dà protezione e denaro facile. Se non vuoi essere un criminale, lo sei comunque per legge e allora o ti pieghi a mamma mafia oppure lo Stato di diritto ci pensa lui a punirti se non servi mamma mafia. Tiriamo le somme. Lo Stato come gendarme garante degli interessi di criminalità. La completa inversione del senso dello Stato. Un piano perfetto, che risponde al vero sentire del potere mafioso italiano. A prescindere dai colori politici, i precedenti governi di colore diverso hanno consentito, in modo più ipocrita, esattamente la stessa gestione criminale dei clandestini di questo ultimo governo. Questi governi esprimono un sentire criminale. Il sentire che sta diventando la identità psicologica e sociale di questa vergogna di paese. La criminalità come stato sociale accettato, favorito e desiderato. Una criminocrazia, ma gestita con orgoglio e sfacciataggine, mica nascondersi. Orgogliosamente criminali. Fabio, cittadino sovrano per diritto costituzionale e per volontà personale. Mi auguro un 2010 con meno balle e più palle per gli italiani tra i 20 e i 30 anni. Mi auguro che si evitino isterismi, drammatizzazioni e insensate prese di posizione dei giovani italiani, dettate più dai diktat di partito, dal populismo, che non dal buonsenso. Insomma, mi auguro di vedere una netta maturazione nel 2010 della generazione che fra pochi anni dovrà governare il paese. Ciò che dico non riguarda i casi personali o i problemi personali, ma le posizioni e gli atteggiamenti concreti di vaste fette dei giovani italiani. Oggi i giovani italiani hanno più balle, cioè scusanti generiche astratte, che palle, cioè il coraggio di mettersi in discussione professionalmente ed economicamente. Le condizioni economiche in cui il paese si dimena sono gravi, ma sempre nel contesto di un paese occidentale ricco, quindi che esclude per la quasi totalità della popolazione la fame indigente. Gli indigenti fino alla fame vi erano prima della crisi e ci sono durante la crisi. Il loro numero non è variato in modo significativo. Invece ciò che è variato per la crisi in modo significativo nella popolazione è la ricchezza del ceto medio, che è di molto diminuita, e la fascia dei cittadini che si è avvicinata alla povertà. In questa situazione il paese necessita di forze nuove, di giovani donne e uomini che prendano le redini del paese con idee nuove, con una visione del futuro differente da quella degli anni 80 e 90 che ha governato il paese fino ad ora. Ma la drammatica realtà è che questa generazione nuova, pronta a rilanciare il bel paese, non esiste. La generazione dei ventenni e trentenni, di cui faccio parte, preferisce passare la mano, cioè lasciare alla generazione precedente, sessantenni, settantenni, il governo politico, culturale ed economico dell'Italia. Lo fa ammantando il rifiuto da impedimenti vari. Mancanza di un lavoro stabile, mancanza di prospettive per il futuro, impossibilità d'entrare nelle stanze del potere. Balle, scuse, bugie, fandonie. Non capisco, se tutti gli impedimenti citati fossero problemi insormontabili, come ha fatto la generazione del secondo dopoguerra a ricostruire un'Italia appena uscita dal conflitto mondiale? Forse i nostri nonni avevano più certezze nel futuro, nel lavoro o più diritti di quello che abbiamo noi? Forse per i nostri nonni è stato facile entrare nelle stanze dei bottoni? E che dire dei nostri padri? Pur partendo da condizioni economiche migliori dei nostri nonni, negli anni 70 avevano condizioni meno favorevoli di noi. Eppure hanno combattuto, dentro al sistema, per entrarvi e modificarlo. Noi dobbiamo smettere di lamentarci e a testa bassa, senza pretese e senza credere che tutto sia dovuto, lavorare e combattere per migliorare la nostra situazione personale, professionale ed economica, facendo da volano per migliorare il paese e il sistema Italia. Nulla è dovuto, tutto lo si conquista con lavoro, serietà e abnegazioni. Il coraggio di mettersi in discussione prima di criticare il prossimo, il sistema o il paese. Proposte concrete, non enunciazioni filosofiche e buoniste, i giovani devono fare. Queste sono battaglie politiche senza casacche, non sono di destra o di sinistra, non sono da fare in piazza o nelle occupazioni, ma sono battaglie di rinnovamento da fare ogni giorno a scuola, sul posto di lavoro o negli uffici pubblici. Spetta ai giovani riformare il sistema. Occorrono più palle nel riformare il paese invece di contestarlo senza concrete proposte. Sinceramente, che l'attuale generazione di giovani, ripeto, di cui faccio parte nel bene e nel male, abbia le palle per contribuire attivamente, cioè con idee concrete e realizzabili, alla rinascita del bel paese, ne dubito fortemente. Ritengo che l'affermazione di Pansa, le giovani generazioni non sanno come procurarsi il pane, sia esatta. Non credo che la mia generazione sia disponibile ad alcun sacrificio rispetto all'attuale condizione di privilegiati nel contesto economico mondiale per un progetto di società migliore, cioè più dinamica, stimolante, efficiente e quindi più ricca economicamente e culturalmente. Il giovane italiano, come il 50-60enne quasi pensionato, preferisce rinunciare ad un possibile miglior futuro per non mettere in discussione le attuali certezze. Ciò ci rende già vecchi. Giovani eunuchi castrati del coraggio necessario per guidare il paese. Il passaggio generazionale in tutti gli ambiti della società, nella stragrande maggioranza dei casi, non si realizza per mancanza di coraggio dei giovani. Magari sono tutti preparati, ma sono sprovvisti di palle. Tutto ciò non è però definitivo, quindi mi auguro per il 2010 più palle e meno balle tra i giovani. Max. Egregio direttore, ha un senso parlare di politica dell'odio o politica dell'amore? Io credo che amore e odio siano sentimenti del tutto estranei alla politica, in quanto totalmente acritici. Si ama e si odia a prescindere, come direbbe Totò. E d'altro canto, tali impulsi, dell'animo più che della mente, non sono tra di loro antitetici né conseguenziali. Non amare non significa necessariamente odiare, così come amare qualcuno non comporta affatto odiare gli altri. Al contrario, la politica dovrebbe fondarsi sul giudizio critico. Il politico si propone con le proprie idee, con il proprio progetto. Il cittadino valuta criticamente, giudica e sceglie. Sulla base di un giudizio critico, un politico può essere apprezzato o avversato, magari detestato. Ma amore e odio associati alla politica ne presuppongono una visione patologica. Così, il dibattito sul partito dell'amore, contrapposto quindi al partito dell'odio, mi sembra del tutto surreale e frutto di una concezione totalmente distorta del rapporto tra politica, politici e cittadini. E non è del tutto fuori luogo affermare che, forse, l'evocazione dell'odio e le sue manifestazioni rappresentano le due facce della stessa medaglia, tanto più se vi si innestano problematiche soggettive particolari. Chi è stato assillato dallo specchio rincorre il facile consenso dettato dai sondaggi alimentati dall'umore del momento, ma lascerà ben poca traccia di sé. Dei pochi anni in cui Romano Prodi è stato al governo, resterà nella storia come una pietra miliare l'aver portato l'Italia nell'euro. Una scelta che allora ha comportato sacrifici pesantissimi ai cittadini italiani, ma nella crisi che in quest'ultimo anno ha colpito l'economia mondiale, si può ben dire ha evitato al paese una deriva argentina. Persino Tremonti ha abbandonato la giaculatoria che per 7 anni, ad ogni occasione, attribuiva tutti i mali del paese all'euro voluto da Prodi. Luigi. Caro Luigi, lasciamo il giudizio stoico agli storici. È difficile giudicare un governo sull'onda dell'attualità. Ci sono state indubbiamente cose positive che sono state fatte, ma bisognerebbe tener conto anche delle cose negative che sono state evitate. Certo, in questi giorni si fanno bilanci dell'anno passato e si fanno previsioni per il futuro, e alla politica viene assegnato il compito di giustificare i bilanci e di confermare le previsioni. E anche su quanto è stato fatto, pensiamo all'emergenza del terremoto in Abruzzo, è altrettanto giustificato il giudizio di chi dice che si è fatto molto e bene, ma ha anche ragione chi stima che si doveva fare di più e meglio. Quanto all'amore e all'odio, lei ha ragione. Non sono, anzi, non dovrebbero essere categorie politiche. Dovrebbero essere carattere delle relazioni umane, dei modelli di comportamento, dei valori che presiedono i rapporti tra le persone in tutti i campi, non solo in quelli pubblici. Eppure, la gestione della politica ha portato in questi ultimi anni, soprattutto in Italia, a una progressiva e accentuata personalizzazione. Il doveroso confronto non avviene sulla base delle idee o dei progetti, ma sulla maggiore o minore dignità riconosciuta alla persona. È inevitabile in questa prospettiva che si scivoli sulle passioni e che la logica manichea del bene da una parte e del male dall'altra porti a contestare prima le persone e poi, eventualmente, le idee. Non è una bella politica quella che stiamo vivendo. Non è una bella politica, ma è da questa e da questi protagonisti che dobbiamo ripartire. Meglio una democrazia fragile che il sogno autoritario che è proprio di tutte le rivoluzioni. Egregio direttore, nelle ultime settimane si è parlato molto dei limiti di velocità sulle autostrade italiane. Abbiamo così appreso che su alcuni tratti di esse sono stati installati dei tutor, cioè dei rilevatori di passaggio che fotografano la targa dell'auto al momento del passaggio in un punto e poi fanno una comparazione con i passaggi successivi per valutare la velocità media parziale e complessiva, verificando se l'auto ha superato i limiti di velocità consentiti. A questo dispositivo esterno si contrappone il Coyote, un apparecchio da installare nella propria auto che ha 2 scopi. Intercettare i tutors di cui sopra, in modo da fornire il dato di velocità media del proprio automezzo, in modo da programmare una sosta alla stazione di servizio o autogrill per rientrare nella velocità massima consentita, riconoscere in anticipo la presenza di autovelox, in modo da regolare la velocità per non superare il limite consentito. Insomma, sulle autostrade italiane vi sarebbe un grande fratello che sorveglia e spia. Come per il reality show, si verrebbe promossi o bocciati in base al limite di velocità. Che bello pensare se ciò potesse avvenire davvero. Infatti, chi percorre la Milano-Venezia sa che la quarta corsia è considerata una pista di lancio aeroportuale nella quale le autovetture vanno a oltre 200 km all'ora e non subiscono alcun controllo. Chi potrebbe interrompere la loro folle corsa per sanzionarli? Basterebbe la rilevazione di un solo giorno per risolvere insieme la riduzione delle auto circolanti per sequestro delle stesse e la diminuzione del debito pubblico per l'emissione delle relative contravvenzioni. Sarebbero cifre da capogiro. Altro che 1 milione di contravvenzioni all'anno per superamento dei limiti di velocità. Perché pensare di modificare gli attuali limiti di velocità sapendo che la possibilità di aumento riguarderebbe soltanto quei 400-500 km di tratti di autostrada che potrebbero consentirlo? Non è forse questa un'inutile discussione? Agostino. Vorrei sottolineare che l'attuale dirigenza di Trenitalia ha improntato tutta la sua gestione su una comunicazione pubblicitaria a spese dei clienti che non è rispondente alla realtà. Sono indignato nel leggere una pubblicità che cita testualmente Trenitalia, la linea che unisce l'Italia. Trenitalia non unisce, ma divide. Provate a prendere la linea adriatica. Andate da Roma a Taranto, da Pescara a Lecce o da Bari a Reggio Calabria. A parte le coperte di lana e a parte le solite autocelebrazioni, vi assicuro che di questi tempi i treni non erano sporchi, ma erano lerci. Baldassarre. Concordo con chi dice che purtroppo esistono ancora due Italie, quella del nord e quella del sud, dimenticata da tutti e soprattutto dai media. Ciò che mi ha particolarmente addolorato il primo giorno del 2010 è il fatto che tutti i telegiornali hanno ricordato il terremoto in Abruzzo e l'esondazione in Toscana. Mi chiedo, che fine ha fatto il senso di unità nazionale, visto che la tragedia ultima di Messina, che conta parecchi morti, è già stata dimenticata? Possiamo ancora considerarci italiani? Mario. Vorrei intervenire sulla proposta di affidare ai privati il finanziamento dei partiti. A me sembra che in questo modo i partiti che rappresentano le istanze dei ricchi sarebbero estremamente favoriti. Giudico poi un obbrobrio la possibilità di detrarre tali somme dai redditi. In questo modo a pagare alla fine sarebbe sempre lo Stato e, per quanto detto sopra, in modo inaccettabilmente squilibrato. Penso che un liberale dovrebbe porsi come obiettivo l'uguaglianza delle condizioni per tutti e non la libertà di fare quello che gli pare. Ivano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.